Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Una buona giornata da Francesco Galante, ma soprattutto un ben ritrovato a Carlo Garofolini dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori, che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, è finita l'Epifania, siamo qui oggi per parlare di un argomento che è sicuramente importante per l'economia del Veneto e anche quella italiana, vorrei dire, perché martedì scorso sono cominciati i saldi. Sì, dopo molta attesa finalmente possiamo dire che è il periodo di poter fare o tentare di fare qualche buon affare, e certamente, come detto, parliamo di saldi che sono partiti martedì dopo molte aspettative, anche se dobbiamo dirlo che con un sopralluogo che hanno fatto i nostri volontari, sostanzialmente l'85% dei negozi abbiamo scoperto o in un modo o in un altro ha già praticato sconti e sta praticando sconti già da un bel po'. Certamente comunque è un periodo che la gente comunque ha aspettato e che in queste ore si sta un po' prodigando negli acquisti. Sì, quello che dici tu è assolutamente vero, io stesso ho ricevuto sms da alcune catene di negozi che per 3-4 giorni prima di Capodanno, 2-3 giorni dopo Capodanno facevano comunque degli sconti, e quindi magari su un pezzo unico, però c'erano comunque delle promozioni interessanti. Sì, come detto, noi ogni anno facciamo un po' queste verifiche e l'85% dei venditori certamente è un dato che lascia poco spazio ai dubbi. È da dire anche, Francesco, comunque, che quest'anno c'è stata una grande aspettativa, è aumentata la platea delle persone che ha dichiarato di fare acquisti in questi giorni, siamo aumentati dal 55 al 60%, ma è aumentata anche la cifra a disposizione che le famiglie quest'anno hanno voluto mettere sul piatto, arrivando a 350 euro. Quindi c'è la possibilità ovviamente di sì che qualche commerciante possa un po' invertire quello che è stato un andamento di questi mesi magari poco entusiasmante. E come ogni anno l'Adico ha lanciato la campagna Fotografa il tuo acquisto proprio per permettere anche ai consumatori di verificare prima se c'è stata congruenza tra il bene venduto e il reale sconto praticato, perché poi durante questo periodo accadono sempre tante cose. Sì, bisogna essere molto attenti e ricordarsi un po' i prezzi che abbiamo visto magari andando a fare un giro nelle classiche vetrine prima di Natale per pensare a qualche regalo, e poi se siamo convinti di aver ritrovato lo stesso prodotto a un prezzo effettivamente in saldo, beh, perché no? Sì, io consiglio, noi per il sesto anno l'abbiamo dato ed è proprio quello di fotografare l'acquisto, infatti la campagna è proprio denominata Fotografa il tuo acquisto. Certo, è anche da dire che fare un sopralluogo qualche giorno prima è sempre anche qui consigliabile, ma tra le varie indicazioni che noi diamo è anche quello di diffidare da sconti superiori al 60-70%, il rischio è, e anche questo è un consiglio, di fare in modo che la merce acquistata non sia un avanzo di deposito o di magazzino di qualche anno fa. Ricordarsi che non esiste il diritto di ripensamento, ma esiste la garanzia che nel caso di difetti può costringere il commerciante a sostituirci bene o restituirci i soldi, e questo vale per 2 anni e può essere validato solo con la presenza dello scontrino. E poi tutti quei piccoli accorgimenti come prefissarsi una cifra prima di partire in modo da non superare il budget messo a disposizione, verificare che il sconto sia reale anche rispetto a quello che è esposto nei cartellini, perché anche qui a volte ci sono degli errori di calcolo, e dopo, come sempre, se ci sono delle cose che possono insorgere durante questo periodo, l'Adico è sempre a disposizione per fornire informazioni, e comunque i vigili urbani sono sempre l'ente preposto a risolvere questo genere di controversie. Ricordiamo, come hai detto tu, che una volta acquistato il bene, teoricamente non c'è l'obbligo da parte del negoziante di doverlo ritirare, quindi è bene informarsi prima se si può cambiare l'oggetto chiedendolo direttamente al negozio. Sì, purtroppo c'è ancora molta confusione su quello che è il diritto di pensamento e quello e anche quello che è il diritto di recesso, perché ricordiamoci che una volta acquistato il negozio non si può pensare di sostituire bene se questo poi quando andiamo a casa ci accorgiamo non è più adatto. L'esempio più tipico può essere quello di un paio di scarpe, io non è che lo possa acquistare e poi camminarci una settimana, scoprire che il numero mi è piccolo e pretendere la sostituzione o la restituzione del bene. E dice sempre un po' il visto è piaciuto, salvo che il prodotto non presenta dei difetti o abbia delle difformità rispetto allo stato d'arte che dovrebbe avere, e quindi allora si può pretendere quello che insomma la garanzia in questo caso costringe il commerciante a dover andare incontro al consumatore. Diversamente invece quando ci sono gli acquisti online, quindi fuori esercizi commerciali, vige la possibilità di pensamento, chiaramente bene deve essere integro e anche nella sua confezione. Ecco, e quindi grazie per questi utili consigli che ogni anno magari ripetiamo, ma c'è sempre da imparare qualcosa di nuovo, ad ascoltare i tuoi consigli, caro Carlo. Grazie all'Adico, ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it. L'appuntamento con te per lunedì prossimo. Sì, grazie a te Francesco e ci sentiamo al prossimo appuntamento. Saluti tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.